Un tremulo vegliardo in vano chiedeva pane e in van tendere me. Arcai degli abitur l'uscio, un uel mi calluniava, vesto e mi andar suava, e l'erario appena sazio, e contro a Dio scagliava, e contro gli uomini le lacrime nei fili. Miseria, la patrizia prore, che fa? Con l'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà. Un Dio guardo a te. Yeah.